Storie italiane. La mucca magica. Molto tempo fa, in un piccolo villaggio, vivevano due contadini di nome Jack e Harry. Entrambi erano molto ricchi. Entrambi avevano grandi fattorie e possedevano molte mucche, ma non avevano mai lavorato. Avevano sempre assunto altri contadini perché lavorassero nei loro campi. Entrambi vivevano in grandi case e indossavano abiti costosi. Ma nonostante avessero tutto, Jack e Harry non erano felici. Voglio assumere altri contadini per aiutarmi a fare più soldi. Sono d'accordo, voglio comprare vestiti di seta. Oh, che ne dici di guadagnare abbastanza per costruire un palazzo fatto di gioielli? Oh, sembra fantastico! Nello stesso quartiere, a poche case di distanza, viveva Thomas. Thomas era un povero contadino. Aveva solo una mucca e un piccolo pezzetto di terra. Ciao, Thomas. Un uomo del villaggio vicino sta vendendo la sua mucca. Ti piacerebbe comprarla? Vorrei poterlo fare, ma non ho i soldi per comprare un'altra mucca. Posso prestarti i soldi se vuoi. È così generoso da parte tua. Ma anche se comprassi la mucca con i tuoi soldi, come sopravviverà dopo? Non ho abbastanza risorse per prendermi cura di due mucche. Né posso continuare a prendere soldi da te ogni giorno. Lei diventerà debole. Grazie per la tua offerta, amico mio, ma sono soddisfatto di quello che possiedo. Thomas era saggio e lavorava duramente tutto il giorno. Poi tornava a casa con la sua mucca e le dava da mangiare. Thomas non aveva mai chiesto di più. Era grato per tutto ciò che aveva nella sua vita ed era sempre felice. Ma Jack e Harry non lo erano. Erano molto gelosi di Thomas. Come mai Thomas è sempre così felice? Penso alla stessa cosa ogni volta che lo vedo. Non ha una grande casa o una grande fattoria. Penso che sia la sua mucca. Harry, la sua unica mucca è migliore di tutte le nostre messe insieme. Forse hai ragione. La sua unica mucca ora l'intero campo. Ho un'idea. Compriamo la sua mucca. Il giorno successivo, Jack e Harry andarono da Thomas e gli chiesero se fosse interessato a vendere la sua mucca. Ma questa è l'unica mucca che ho. Siamo pronti a darti 10 monete d'argento. Questo è il miglior prezzo che otterrai. Ci sono molte mucche in vendita. Puoi comprarne due. È un buon affare, Thomas. Ma come può essere un buon affare? Ho una mucca sana che posso nutrire e della quale mi posso prendere cura. Vuoi che ti venda questa mucca, che ne compri due di cui non sarò in grado di occuparmi? Non ti venderò la mia mucca. Vattene, per favore. Jack e Harry erano molto arrabbiati e così se ne andarono. Chi crede di essere? Come osa dirci di no? Siamo tra le persone più ricche di questo villaggio. Deve imparare a rispettarci. È troppo orgoglioso della sua mucca. Dovremmo costringerlo a venderla. Jack e Harry volevano insegnare una lezione a Thomas. Quella notte uscirono di soppiatto dalle loro case e si diressero verso la fattoria di Thomas. Senza preoccuparsi in alcun modo di Thomas, diedero fuoco alla fattoria. Il giorno seguente, Thomas si svegliò alla notizia dell'incendio. Si precipitò e vide che i suoi raccolti erano completamente distrutti. Oh no, i miei raccolti! Come sopravviverò ora? I giorni passarono e tutto il cibo di Thomas era ormai finito. Né Thomas né la sua mucca avevano qualcosa da mangiare. Sono passati 2 giorni. Io posso sopravvivere in qualche modo, ma la mucca no. Credo che dovrò vendere la mucca. Chiunque la compri si prenderà cura di lei. Thomas aveva un piccolo piccolo barattolo di vetro che usava per mettere i suoi risparmi. Non c'era rimasto molto denaro lì dentro. Poiché non sapeva per quanto tempo sarebbe stato lontano da casa sua, decise di portare tutti i suoi soldi in un sacchetto e lasciò il suo villaggio. Mentre attraversava la foresta, Thomas si rese conto che i suoi soldi non sarebbero stati al sicuro nella sua tasca. Dovrei legarlo alla campana della mucca. Se arriva un ladro, non penserà di attaccare la mucca. Thomas legò il sacchetto alla campana della mucca e andò avanti. Dopo aver camminato per un po', si imbatté in un villaggio. Decise di riposare un pochino. Lasciò la sua mucca sotto un capanno e si allontanò per cercare dell'acqua da bere. Vicino al capanno c'era un negozio di legumi e grano. Il proprietario di quel negozio uscì per fare una passeggiata. Che giornata noiosa! Vide la mucca in piedi sotto il capanno e si avvicinò. Non appena la mucca girò la testa verso il proprietario, una moneta d'argento cadde dal suo collo. Che cosa strana! Decise di avvicinarsi a controllare la mucca. Mentre si avvicinava di un passo, un'altra moneta cadde dal suo collo. Cosa? Questa è una mucca magica! Il proprietario non si accorse del sacchetto di monete d'argento attaccato alla campana della mucca. Credendo che fosse una mucca magica, decise di comprarla subito. Proprio allora tornò Thomas. Ciao, signore! Questa è la tua mucca? Sì, qualcosa non va? Vorresti venderla? Ne ho bisogno urgentemente. Oh, certo! Stavo andando al villaggio vicino per vendere questa mucca. Cosa? Forse non sa che questa è una mucca magica. Oh, sono fortunato oggi. Molto bene, allora. Sono pronto a darti 500 monete d'argento. Abbiamo un accordo? Thomas fu sorpreso. Accettò l'affare senza perdere tempo. Prese le sue 500 monete d'argento e se ne andò, dimenticandosi del suo sacchetto di soldi attaccato alla campana della mucca. Thomas tornò felicemente a casa. Una volta tornato, vide Jack e Harry sulla soglia di casa. Lo stavano aspettando. Pensavano che Thomas sarebbe tornato a casa infelice, ma invece c'era un gran sorriso sulla sua faccia. Ciao, Thomas. Tu sembri felice. Lo sono. Ho venduto la mia mucca a un generoso gentiluomo. Mi ha pagato con 500 monete d'argento. 500 monete d'argento? 500 monete d'argento? Sì. Ora posso comprare un pezzo di terra più grande. Coltiverò più cose e le venderò al mercato. Posso comprare anche più mucche. Avrò abbastanza risorse per prendermi cura di loro. La mia mucca mi ha reso davvero fortunato. Ad ogni modo, sono stanco ora. Ci vediamo presto. Addio! Il proprietario trovò il sacchetto di monete di Thomas attaccato alla campana della mucca. Si rese conto che non era una mucca magica, dopo tutto. Ma non c'era niente che potesse fare adesso. Gli sforzi di Jack e Harry erano andati invano. Volevano vedere Thomas infelice. Sebbene fossero più ricchi di Thomas, si sentivano piccoli e poveri. E Thomas, d'altra parte, non era mai stato più felice. Jack e Harry scossero le loro teste e se ne andarono. Thomas comprò molte mucche e un grande pezzo di terra con i suoi soldi. Non smise mai di lavorare. Coltivò grano e legumi e li vendette al mercato. Lentamente, con il suo duro lavoro, divenne il più ricco agricoltore del villaggio